come si dice, good afternoon. Sì. Good afternoon. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Microfoni aperti per voi fino alle 15.30. Oggi facciamo, almeno all'inizio, il grande processone all'Inter per la figuraccia che abbiamo visto ieri sera a Praga, la seconda consecutiva in Europa League, che apre a mille considerazioni sull'Inter, sul suo destino in questa stagione, su che cos'è, che cosa vale in realtà, su De Boer e le sue responsabilità, se ci sono, sulle responsabilità dei giocatori. Insomma, quello che abbiamo visto ieri è, diciamo la verità, sconcertante. 800240024, Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, ciao. Eccoci, come va? Bene, bene, bene. Insomma, pensavamo di non aver nulla da raccontare dopo questo giovedì di Europa League e invece l'Inter ci regala materiale. Beh sì, anche se poi bisogna capire se l'Europa League è realmente la priorità dell'Inter, perché c'è anche questo tema, insomma, lo sappiamo, è un malcostume, è sbagliato. Io per anni ho fatto vedere le cronache dell'Europa League, mi incavolavo come una bestia. Ci sono degli anni nei quali veramente l'Europa League viene snobbata e questo è veramente un peccato, perché poi è una competizione che è un po' faticosa sicuramente perché è molto lunga, però se vai avanti ti può regalare delle grosse soddisfazioni. Detto questo, l'Inter può ancora qualificarsi. Sì, poi. Sì, anche se diventa tutto maledettamente complicato e soprattutto è un controsenso costringersi a fare quattro finali per doversi qualificare in una manifestazione che, lo sappiamo, soprattutto nella prima fase è pesante logisticamente, difficile, toglie energie per il campionato. Cioè, l'ideale è poterla gestire qualificandosi con calma e magari regalando anche qualche partita, ma non le prime, che poi devi vincere le ultime quattro. Di solito si fa il ragionamento contrario. Ti faccio sentire Pier De Boer ieri dopo la partita, a proposito dell'atteggiamento, perché la domanda e la questione che io voglio porre, poi ne parliamo anche con Fabrizio Biasin, giornalista che segue l'Inter da vicino, è questa: può un allenatore puntare il dito dopo la partita, la seconda consecutiva persa nella stessa maniera, dicendo che è sbagliato l'atteggiamento, senza fare una riflessione sulle sue responsabilità? De Boer ieri. Il calcio sempre cominci con l'atteggiamento, e dopo possiamo parlare sopra tattica, però la prima cosa sempre sta molto importante è l'atteggiamento, e come il secondo gol per me non è possibile. In questo dobbiamo migliorare moltissimo. Cosa ne pensi, Pier? Penso che in cuor suo sa benissimo che poi ci sono delle responsabilità e ne parlerà con la squadra. Cioè, è chiaro che questi cali di tensione sono da condannare, e l'allenatore è sempre comunque la sintesi tecnica della squadra, quindi se la squadra fa sottoperforma, come direbbe Barisoni, e la colpa è chiaramente automaticamente dell'allenatore, non è che c'è da girarci attorno, quindi questo secondo me lui lo sa, ne è consapevole e lavorerà, ma lavorerà nel chiuso dello spogliatoio. Sì, tra l'altro ieri c'erano in campo da titolari sei giocatori che erano titolari 10 giorni fa in Inter-Juventus, quindi non era nemmeno un Inter 2 imbottita di riserve come capita ogni tanto quando si affronta una manifestazione considerata secondaria, e ripeto, è una follia pensare che l'Europa League possa essere snobbata in partenza. Però ve lo chiediamo, 800-24-0024, chi ha più colpe per quello che si sta vedendo, De Boer o la squadra? Altri temi, siamo a un mese da Juventus-Napoli, il primo incrocio scudetto. Ieri Ancelotti, proprio a Tiki-Taka, edizione speciale per gli 80 anni di Berlusconi, su Allegri e le critiche. Ma Allegri sta facendo bene alla Juventus, insomma, supportato da una società molto ben organizzata, che però inevitabilmente a tutti si chiede sempre qualcosa in più, chiede di vincere, come diceva delle volte il presidente, tanto per tornare al presidente, stravincere quando è possibile. Insomma, deve abituarsi Allegri alle critiche? Sì, ma Allegri, cioè, guarda, Allegri dice un grande vecchio. Allegri in questo è molto ancelottiano, secondo me, nel senso sono due grandi incassatori, due uomini che secondo me, con i quali sarebbe bello fare due chiacchiere ogni tanto quando uno c'ha un mezzo finto problema nella vita, perché secondo me hanno proprio questa perfetta capacità di riportare poi le cose al loro effettivo valore, e i problemi alla loro gravità o meno. Ci sono chiaramente cose nella vita imparabili e gravissime, ma ci sono anche delle situazioni nelle quali invece ci si mette il panico per nulla, no? E loro, secondo me, da questo punto di vista sono molto simili, hanno questa capacità di rimanere tranquilli, equilibrati, senza impazzire, e anche qualche volta di incassare, insomma. Immagino che la vita di Ancelotti con Berlusconi sia stata una vita, e di tutti gli altri allenatori del Milan, basata anche su qualche finta di niente ogni tanto, fa finta di non leggere, di non ascoltare. Ancelotti è l'allenatore che si prese il diktat sulle due punte, domani arriverà una lettera a Milanello, eppure non successe ieri nulla. Abbiamo fatto il giochino con, c'era questo momento straordinario con un three box, come si dice in gergo, no? Con Capello, Sacchi e Ancelotti, come fossero tre concorrenti di un quiz. Con quante punte giocavi, con quante punte, cioè, e devo dire che insomma, nessuno giocava con le due punte vere, no, come voleva il presidente. Sacchi ha detto con 5-6 addirittura, Capello ha detto almeno 2, insomma in realtà tutti hanno giocato un po' come gli pareva, e è chiaro che Berlusconi in qualche momento avrà anche messo pressione, poi di contro c'era il vantaggio di poter allenare una squadra fortissima che spendeva tanto, con un presidente con una grande leadership, quindi poi alla fine secondo me questi piccoli condizionamenti e queste piccole pressioni venivano più che compensati dal fatto di poter comunque lavorare in un ambiente così stimolante. Sì, a proposito del duello, poi c'è il traffico tra Juventus e Napoli, inizia adesso, ce lo porteremo avanti per un mese. Ieri hanno parlato in due del Napoli. Capello, che al mattino ha detto il Napoli è da finale Champions, e vorrei sapere che cosa ne pensate. Sacchi invece su Sarri. È una squadra che gioca bene, è una buona organizzazione, ha dei giocatori disponibili, pieni di entusiasmo, hanno capito che il gioco li aiuta ad essere ancora più bravi. Ecco, Arrigo Sacchi l'aveva consigliato al Milan, non sbaglio, è vero, lo possiamo mettere. Lasciamo stare. Lasciamo stare. 800 24 00 24, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Non ho proprio più la pazienza di sopportare questa gente che indossa indegnamente la maglia dell'Inde! Oh, che quelle sono quattro multe qui! Ma chi cazzo sono? JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti convocati. Noi dobbiamo capire che giocare in Europa non è semplice, cioè è diverso del campionato italiano. Noi dobbiamo entrare tutta la partita come se fosse un derby, ecco, è quello che dobbiamo fare, e non stiamo facendo fino adesso, non abbiamo fatto, sia a casa sia oggi, quindi secondo tempo credo che abbiamo meritato anche di più, dopo l'espulsione è diventata anche più dura, però primo tempo, cioè, quando abbiamo pensato in giocare a calcio era già 2-0 sotto, quindi è così difficile. Questo era Felipe Melo. Io trovo curioso i giocatori che sul campo sono tra i peggiori e poi dopo vanno a spiegare che bisogna avere un atteggiamento diverso. Saluto Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Convocatissimo per cercare di difendere questa Inter. Ma come si fa a difendere? Cioè, abbiamo vissuto la partita di ieri, fanno sorridere le dichiarazioni post partita di Felipe Melo, perché ci può stare una partita sbagliata, ma se poi le partite diventano 2, 3, 50, io credo che poi ci sia una sorta di accanimento terapeutico nei confronti di qualche giocatore che evidentemente non è presentabile perché è inadeguato a vestire questa maglia. Bisogna fare anche i nomi, perché ragazzi, purtroppo giocatori, bravi ragazzi come Ranocchia, D'Ambrosio, lo stesso Felipe Melo, se devono essere la guida di questa squadra diventano un problema. Possono essere il supporto ai giocatori di qualità, ma non la guida di questa squadra. Sì, però io non so cosa ne pensate, e lo chiedo anche a Pierluigi. Io non ho mai visto una squadra con un tale divario fra i 13-14 titolari e gli altri, che non è che sono un gradino o due gradini sotto, sembrano semplicemente fuori dal progetto. È una cosa che sinceramente trovo abbastanza incomprensibile. Il Napoli l'anno scorso aveva i titolarissimi e gli altri, ma gli altri nel girone di Europa League hanno fatto 6 vittorie su 6 all'inizio. Sì, però non so dirti sinceramente se nella storia questo sia un inedito assoluto. E poi invece sono d'accordo sul fatto dell'essere fuori dal progetto, nel senso che secondo me non è tanto un discorso di divario tecnico. Pensa a Brozovic, no? Brozovic è un giocatore che è stato cercato, che aveva mercato, che probabilmente se si va avanti così a gennaio verrà venduto, un giocatore molto interessante, magari un po' anarchico ma molto interessante. E sappiamo che fine ha fatto fino a questo momento, no? E che tipo di condizione versa proprio dopo la prima sconfitta, la prima partita di Europa League contro l'Apoel. Quindi secondo me non è un inedito assoluto. Ci sono stati casi nel passato di squadre che avevano una sproporzione forte fra i primissimi e quelli dietro. Sicuramente con 13 giocatori non si ha da nessuna parte, questo non c'è dubbio. Quindi recuperare una parte di queste seconde linee secondo me è una priorità assoluta nella testa di De Boer. Fabrizio, ma c'è qualche responsabilità di De Boer o è tutta colpa di Ranocchia, di D'Ambrosio, di Felipe Melo? Guarda, io quelli che non si impegnano, che sono scarsi, perché è quello che pensano oggi tanti tifosi dell'Inter. Io sono d'accordissimo con Pier, io non credo che ci sia mancanza di impegno. Secondo me anche Felipe Melo, che dice non abbiamo giocato bene il primo tempo, siamo svegliati dopo, dice una cosa non vera. La verità è che ci sono dei limiti in alcuni giocatori che possono essere levati soltanto in presenza di giocatori più forti. Con João Mario l'Inter ha giocato 3 partite e le ha vinte tutte e 3. Non perché João Mario sia il nuovo fenomeno del calcio, ma rende semplici le cose anche ai suoi compagni. Sì, però Fabrizio, l'anno scorso di questi tempi, con Felipe Melo titolare, l'Inter era prima in classifica. E infatti si diceva, più riprese, è una cosa non durerà. Sì, non durerà, però non è un giocatore che non può stare in campo in una partita di girone di Europa League. Assolutamente no. Infatti ci sono giocatori che vanno recuperati. Io però non penso dover dare in questo momento delle responsabilità specifiche a De Boer. De Boer sta provando a conoscere il suo gruppo di uomini. Sono 45 giorni che è all'Inter e probabilmente a questo punto si è fatto una classifica. Io sono convinto che domenica vedremo la seconda Inter, l'altra Inter, quella che oltre a metterci la buona volontà, ma quello è il minimo sindacale per un giocatore professionista, riesce a mettere anche un po' di fosforo e capacità di giocare. Sintesi di messaggi che stanno arrivando: 349-238-6666, sms, WhatsApp. Il problema dell'Inter è che non ha un gioco definito. Questo è Luciano. È possibile che alcuni giocatori non siano compatibili tra loro e quindi non possono giocare insieme? È la domanda di Riccardo. Io non credo, magari manca un regista se non c'è João Mario, però ripeto, gli altri dovrebbero essere ampiamente sufficienti per battere israeliani e lo Sparta Praga, che arrivava ieri in crisi e con un allenatore appena imbarcato. O ancora, l'Inter è come la Roma, vince con la Juve e scarica la tensione invece di caricarsi. Poi c'è chi chiede se Ranocchi è ancora un giocatore da Serie A. Chi è che vuole rispondere? Su Ranocchi, guarda, secondo me sì, però sì, no, ma sicuramente sì. Però deve anche farsi un giro da un bravo analista, perché secondo me è un problema veramente psicologico in questo momento. Domenica ha disputato una partita che per i primi 20 minuti è stata oscena. Dopodiché il ragazzo ha fatto vedere che lui sa stare in campo, ha disputato una onestissima gara. Il problema è che manca di totale continuità. Tutte le volte che viene chiamato a giocare 2 partite di fila da titolare si smarrisce e si impaurisce. Non si può avere sempre di fianco il papà Miranda, cioè bisogna anche sapersela gestire da soli. Sì, condivido. È chiaro che siamo di fronte a una situazione psicologica. Mi viene sempre in mente, vengono sempre in mente le parole di Ventura, che li aveva tutti e due, lui e Bonucci, ai tempi di Bari, e più volte insomma ha detto che dal punto di vista tecnico poi Ranocchia non aveva niente da invidiare a Bonucci in quel periodo. Hanno preso 2 strade completamente diverse, in qualche modo secondo me anche frutto delle situazioni differenti che ci sono state fra Inter e Juve in questi anni, perché pure questo va detto, insomma è certamente più facile giocare con Barzagli e Chiellini piuttosto che con altri giocatori. Poi Ranocchia ci ha messo del suo, insomma io credo che la differenza fondamentale lì sia fra la crescita di Bonucci e il calo di Ranocchia sia di carattere psicologico. La spiegazione è di carattere essenzialmente psicologico, perché Ranocchia poi appunto di tanto in tanto ha fatto intravedere in questi anni anche delle prestazioni discrete, ma la continuità sappiamo che per un difensore è fondamentale. fondamentale. Sì, insomma, è tutto, erano ok. Se ha avuto continuità, l'ha avuta nel fare prestazioni pessime, però io credo che sia un giocatore che in Serie A ci sta e come. A proposito di De Boer e delle responsabilità o meno, vi faccio sentire questa risposta che ha dato questa mattina Moratti ai microfoni di Premium, perché secondo me è curiosa. Dopo una giornata non potevano mandarlo via, sono mica tutti come me, no? Credo che no, De Boer ha fatto bene a aspettarlo, perché poi si è trattato di un paio di giornate difficili, ed è bravo questo allenatore, bravo, il carattere mi sembra giusto in questo momento, validissimo per questa squadra, e io spero proprio che possa raggiungere dei buoni risultati. In pratica Moratti ha detto che fosse stato per lui probabilmente l'avrebbe mandato via. Beh, storicamente Moratti queste cose le ha anche fatte, però qui non si tratta di aspettare De Boer è praticamente appena arrivato, cioè bisogna fargli svuotare la valigia. Sì, insomma, un paio di mesi ci siamo, Fabrizio. Sì, no, perché sennò andiamo avanti fino a Natale, fino a maggio, sì, fino all'anno prossimo. Con te. E infatti stiamo parlando di una squadra che in campionato è partita molto molto molto male anche per colpa di De Boer, ma adesso in un modo o nell'altro si ritrova al terzo posto, per cui purtroppo noi siamo su questa altalena, per cui una settimana De Boer è il nuovo genio della panchina mondiale, certo. La settimana dopo è l'ultimo Pirla, e secondo me bisogna avere un minimo di equilibrio. No, ma hai ragione, bisogna avere un minimo di equilibrio, però è pure vero che qui siamo di fronte a una situazione nella quale l'Inter ci scavalca a sinistra, nel senso che già noi giornalisti sportivi siamo... No, diventa difficile, siamo abituati a delle oscillazioni enormi. Così rispondiamo agli amici che dicono ma fate il processo all'Inter, esagerati, però è così, nel senso che l'Inter quest'anno ha fatto una partita con la Juve pazzesca, ha fatto 20 minuti finali col Pescara comunque di grandissimo carattere. Non lo so, aiutatemi voi, altre situazioni. Anche con il Bologna, a Empoli ha fatto una partita solidissima, cioè, ha fatto delle cose buone e poi ha fatto delle cose orrende, e quindi voglio dire, uno poi giudica quello che vede. In assoluto, siccome bisogna provare ad avere l'orizzonte più lungo del naso, anche se io ho un naso abbastanza lungo, sicuramente è una squadra di prospettiva, che in prospettiva mi sembra possa crescere, è una squadra che se la Roma dovesse continuare ad avere degli affanni, secondo me può arrivare terza. Se no arriva quarta, questo è il mio pronostico. Alla Catalogna, arriva quarta. Secondo me è vero che la sensazione è che ci sono due squadre che hanno prenotato. Sì, scusate, sì, assolutamente, la Gazzetta all'inizio dell'anno ha messo il Napoli quarto, ma non è che adesso non sto riprovando nulla alla Gazzetta, voglio dire, i pronostici si fanno per essere sbagliati. Io l'anno scorso, alla quarta giornata, col Napoli che aveva vinto 5-0 con la Lazio, mi ero fissato che Napoli era la scudetto e probabilmente lo sarebbe stato. Sì, ma siamo andati avanti fino a marzo, no? Esatto. Inoltrato, grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao. Ciao Fabrizio. 800 24 00 24, prima della borsa facciamo Giacomo da Lucca. Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera, grazie della parola. Grazie a te. Semplicemente volevo chiedere a Pierre, si parla io sono un tifoso juventino moderato, ho cugini, parenti, amici interisti, quindi sono abituato a tutto, assolutamente, però la domanda è questa. Non è una colpa, assolutamente, però ho sentito dappertutto, qui a Lucca, in radio, in televisione, si santifica questa partita dell'Inter con la Juve di 10 giorni fa, e a me sinceramente sembra che più che l'Inter, che ha fatto una partita dignitosa, sia la Juve che non ha giocato per niente. Cioè, è esattamente il contrario, ma tutti andiamo dietro a questa onda dove si dice che l'Inter ha fatto una straordinaria partita. Guarda caso le partite precedenti, quelle successive, l'Inter è sparita. Sarà che ha giocato con la Juventus e ha vinto la partita, e quindi sì, l'Inter ha fatto stagione, come dicono tanti. Pier. Sì, ma è vero, poi quando ci sono partite che in qualche modo sorprendono, nelle quali c'è un verdetto così netto e così diverso da quello che in qualche modo lo si poteva immaginare, è chiaro che ci sono due elementi. Da un lato un overperforming, oggi c'ho sto linguaggio da borsa, dopo aver visto Barisoni in sogno, non lo so, però insomma qualcuno che ha fatto meglio delle previsioni e qualcuno che ha fatto peggio, e l'insieme di queste due cose provoca quel tipo di risultato, però questo ci dice intanto che l'Inter, quando è in grande condizione, può fare grandi partite, e già questo è qualcosa, perché vuol dire che che questa capacità c'è. Poi che la Juve quel giorno abbia cannato la partita non c'è dubbio. Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Overperforming. Overperforming, esatto. C'è la borsa, dai. Oppure underperforming, dipende. Tutti convocati. Se vuoi a Milano vuol dire che sei di burro. Sa me che dura poco quello lì a Milano il sole, eh? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Peccato perché eravamo anche in partita, la squadra stava anche giocando, abbiamo ricercato quella che era la nostra idea. Loro sono stati un pochino, sono stati più bravi nell'attaccare la porta, nel determinare, però spesso abbiamo avuto anche noi il pallino del gioco e non siamo stati magari brillanti nell'andare a chiudere tante trame di gioco, essere un pochino più qualitativi negli ultimi 20 metri, quello che invece loro sono stati. Vincere con espressivo risultato, comunque non molto soddisfatto per l'approccio alla partita. Credo che l'abbiamo veramente sbagliato, sottovalutato, e questo mi dispiace perché dobbiamo rispettare un avversario che si è presentato ancora una volta come noi l'avevamo analizzato, una squadra che ha una buona qualità di palleggio, una buona dinamica sempre che ha il possesso, e ci ha creato tantissime difficoltà. Francesco, aspetto tecnico, sei un fuoriclasse, lo sappiamo, ma giochi 90 minuti, poi con una freschezza, stai bene proprio. Sì, primo tempo scherzavo con il fisioterapista, dicevo, diciamo, neanche a 25 anni stavo così bene, però è vero, sto bene fisicamente, sto bene con le gambe, e 90 minuti li tengo abbastanza bene. Riassunto sonoro del giovedì di Europa League, Inter a parte, insomma Sassuolo non ne aveva più, troppi infortuni, vediamo se riuscirà Di Francesco a rimettere in piedi Sassuolo per la partita di domenica contro il Milan, e poi l'approccio sbagliato ma anche la vittoria larga della Fiorentina, e l'avete sentito, Totti che dice che sta meglio adesso di quando aveva 25 anni, Luca Valdiseri, Corriere della Sera, ciao Luca, buon pomeriggio. Eccomi, ciao. Ma quando dice così, lo chiedo anche a Pierluigi Pardo, lui a chi sta parlando? Scherza, parla col fisioterapista, sta continuando quella battaglia che lo porterà a dire io ci metto, guarda, ci scommetto almeno un euro, tutto intero, che a marzo, aprile verrà fuori il tema che vuole andare avanti un altro anno perché sta bene. Sta parlando con chi ha detto che il corpo non faceva più quello che gli diceva la mente. Quindi messaggio da leggere tra le righe, ma nemmeno troppo. No, sai, poi i messaggi li porta via il vento, no? Mentre quello che fai sul campo rimane. Negli ultimi, diciamo, tre mesi agonistici, aprile, maggio, settembre, Totti è stato, ma di gran lunga, per distacco, il miglior giocatore della Roma. Non c'è nessuno che è riuscito a fare quello che ha fatto Totti, per cui... Non è né una rivincita né altro, è semplicemente la dimostrazione che se ti alleni bene hai la fortuna anche appunto di non avere infortuni, a 40 anni se sei bravo sei bravo, ma come mi piace molto il basket, Dino Meneghin era un giocatore, cioè, ha giocato contro suo figlio, ha giocato sì, contro Andrea. Sì, sì, ma sarebbe anche andato avanti a giocare contro il nipote, probabilmente, Pierre. Sì, credo proprio di sì, credo che insomma Totti stia facendo un 2016 pazzesco. Io sono dell'idea, anche perché secondo me non ci sono alternative, che si debba trovare un compromesso. Mi sembra che in questi giorni, dopo l'intervista di Hillary, si sia riavvolto un nastro di un po' di mesi, ma in realtà bisogna trovare un compromesso fra allenatore e giocatore. Ovviamente poi la società e Pallotta è un altro discorso, ma questo compromesso secondo me in campo si era trovato e si sta trovando, perché poi Totti è tornato ad essere un giocatore importante negli equilibri della Roma, non sempre dal primo minuto, quasi mai dal primo minuto se non in circostanze speciali, ma è tornato ad essere un giocatore. Quindi è abbastanza paradossale quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi dopo quell'intervista. Io sono anche dell'idea che Spalletti abbia contribuito in una maniera magari anche sgradevole in certi momenti, anche provocatoria, ma abbia contribuito a un'ulteriore crescita, a stimolarlo. Ragazzi, è così. Poi è Totti di quelle cose, cioè che il merito sia di Totti, che certamente è capace di quelle cose, non ci sono dubbi, però insomma è stato uno stimolo. Ieri avevo appunto in studio Capello, a un certo punto c'è stata una domanda su Montella e mi è venuto in mente come Capello trattava Montella nell'anno dello scudetto, no? In qualche circostanza poteva sembrare veramente quasi provocatorio nei suoi confronti, ma aveva ragione lui, perché aveva tirato fuori da Montella il meglio e Montella magari entrava nel secondo tempo e risolveva le partite perché era incazzato come una iena. E secondo me questi ultimi mesi di Totti sono dovuti all'incredibile talento di Totti, alla clamorosa vita d'atleta di Totti, a tutto quello che vogliamo, ma anche a questo tipo di provocazione che ha fatto tirar fuori a Totti ancora una volta, sì, il meglio di qualcosa di più, che magari sai, in una, piuttosto che un lento declino, un lento tramonto, questa scintilla gli ha ridato secondo me la voglia di stupire. Guarda Capello su Totti da ieri sera te lo faccio sentire anche a Luca Valdiserri, poi un altro audio, prendo un minuto, lo ritardiamo il traffico perché così chiudiamo il discorso sulla Roma. Prima Capello su Totti: se non ci si diverte è meglio smettere. E sta in forma, l'abbiamo visto anche in campionato. Sì, sta in forma, lui è migliorato molto negli ultimi 7 anni, 8 anni, si sacrifica di più, è sempre molto a posto fisicamente. Prima il fisico gli rispondeva meglio, quindi a questo punto lui ha capito che deve fare qualche sacrificio. E facendo qualche sacrificio, con la classe immensa che ha, fa ancora divertire, perché credo, tra tanti buoni giocatori che ho allenato, campione del mondo, lui a livello genialità è stato il numero uno. Questo Capello, invece, nel paradosso di ieri sera, serata di festa, 4-0, avversario scarso, ma insomma abbiamo visto l'Inter ci ha perso contro avversari scarsi, quindi mai buttare via un 4-0. Luca, io ti faccio sentire, ma tu l'hai sentito, insomma, anche Spalletti si è tolto un po' di sassolini dalla scarpa. E lui è venuto e ha detto: la cosa su cui si baseranno loro è che siamo dietro a festeggiare il compleanno di Totti. E allora mi è servito per dirlo subito alla squadra, ecco, perché poi cambiare atteggiamento da una festa in 2 giorni non è facile, ecco. Però loro ci sono riusciti, io ieri in allenamento li ho visti abbastanza determinati, abbastanza bene, ma la regola sarebbe stata farlo in un altro momento. Cioè, tradotto, non è che gli sia andata giù la festa nella settimana in cui c'era campionato, Europa League e campionato. Luca? Guarda, io in tutta sincerità, avendo ahimè 53 anni, per cui di calcio ne ho visto tanto da tifoso, poi da giornalista, io ho sempre visto almeno uno, difficilmente due, ma un giocatore per squadra al quale veniva un po' alleviato il lavoro, no? Cioè a Cristiano Ronaldo non gli dicono di rincorrere il terzino come non glielo dicono a Messi, poi se lo fanno tanto meglio, no? Rincorriamo in 10 anziché in 9, ma qualunque squadra del mondo il suo giocatore più forte, e il giocatore più forte della Roma è per distacco a 40 anni Francesco Totti, ha un po' più di libertà. Se la Roma non si ritiene in grado di supportare un giocatore così, il problema non è di Totti, il problema è degli altri. Cioè, perché Totti non deve partire a titolare contro tutti? Perché corrono, perché l'Inter corrono, perché c'è più fisicità. Ma 1 su 10 dei giocatori di movimento, secondo me, se ti manda poi 4 volte, 5 volte in porta il giocatore davanti al portiere da solo, che corra anche meno. Certo, se tu mi dici, guarda, ce n'ho 3, ce n'ho 4, allora no, perché perdi contro tutti, oggi come oggi. Ma tu devi trovare il modo di limitare questo questo danno, no? questa possibilità, e lo devi fare solo per un campione. Cioè, quindi dovrebbe giocare anche se gioca fra virgolette da fermo. Poi un amico ci chiede quanti chilometri ha corso ieri, visto che la media è 10. Adesso il dato lo cerchiamo e vediamo se entro la fine della trasmissione riusciamo a rispondere. Pier, però posso dire, secondo me qui non è un discorso di Totti che rincorre, qui Spalletti ha fatto un discorso sulla festa dell'altra sera, e secondo me su un certo tipo di ambiente, un certo tipo di atteggiamento e di disciplina che lui vuole imporre all'ambiente e alla squadra. La domanda è una, essenzialmente, ed è capire se la figura di Spalletti è una figura utile, che migliora l'ambiente Roma, che migliora la squadra, la cultura del lavoro, e che dà alla Roma più possibilità di vincere rispetto al passato. La mia sensazione, ovviamente fino a prova contraria, è che la risposta sia sì. Poi alcune uscite di Spalletti, l'ho detto mille volte, l'ho detto l'anno scorso, non mi sono piaciute, soprattutto una serie di aspetti, quella famosa conferenza stampa, te la ricorderai benissimo, Luca, nella quale tornava a parlare del derby, della doppietta, dicendo che forse se la Roma perdeva 2-0 era anche perché era colpa di Totti. Qualcuno non marcava, però cioè, il riferimento era a quello, addirittura aver dato i dettagli aerobici dei test di Totti della partitella con la primavera. Ecco, alcune cose mi sono sembrate tali da autorizzare l'idea, come dice Ilari, che sia ossessionato da Totti, ma complessivamente a me sembra che Spalletti stia facendo un lavoro importante, un lavoro di crescita complessiva, e chiaramente la crescita della Roma, Luca conosce, io sono romano e vivo a Milano, Luca è milanese ma vive a Roma, ormai la conosce meglio di me, l'ambiente, non è che uno deve detottizzarlo perché ce l'ha con Totti, deve dare secondo me all'ambiente gli strumenti per poter sopravvivere quando questo giorno terribile in cui Totti non sarà più prima Totti poi arriverà, per poter convivere con questa cosa qui. La verità però è che Totti è talmente grande che questo momento sembrava essere arrivato ed è riuscito ancora a procrastinarlo. Questo è ciò che è avvenuto. Non vedo uno Spalletti che fa delle scelte in preda al suo ego, in maniera autolesionista, perché non sopporta Totti. Io vedo Spalletti che sta cercando di costruire, con le sue asprezze caratteriali, con i suoi silenzi, con i suoi comportamenti, le battutine, i topini, le cose che sentiamo, però costruire una Roma più forte dal punto di vista ambientale capace di sopravvivere al giorno in cui Totti non ci sarà più come calciatore. Poi abbiamo il traffico, io saluto e ringrazio Luca Valdiserri e alla prossima. Luca, grazie. Io da maligno, da osservatore esterno, allora, dopo aver sentito ieri Spalletti, verifico che dopo 8 mesi di cura Spalletti a Roma si può tranquillamente organizzare la festa di Totti nella settimana con i 3 impegni, anche se l'allenatore non andava bene. Evidentemente non è cambiato nulla da questo punto di vista di tutta la battaglia di Spalletti. Però ne parliamo, c'è il traffico, 800 24 00 24. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Convocati. Sono tornato a giocare dopo un brutto momento familiare. Niente, felice perché abbiamo vinto, perché ho fatto il mio lavoro, che è fare gol. Tantissima voglia di tornare a fare questo che è la mia vita, insieme alla mia famiglia. Niente. Il pubblico che sempre mi ha dato il suo affetto, tantissimo affetto. È stato particolarmente emozionante vedere ieri Zarate segnare una doppietta. La sua vicenda personale l'avete letta in queste settimane sui giornali. La moglie in Argentina sta lottando contro un tumore al seno e Zarate in questo avvio di stagione è stato spesso lontano dall'Italia proprio per stare insieme alla sua compagna. Ne approfittiamo per dire che proprio nelle prossime ore si apre la campagna nazionale Nastro Rosa per la prevenzione dei tumori femminili, e quindi questo serve per sensibilizzare su un tema che è particolarmente delicato. 800 24 00 24, Pierluigi da Treviso. Sì, salve, saluti. Ciao. Giovanni e Pierluigi. Ciao. Ascolti, Avete notato come mai, come quest'anno, arrivare primo o secondi nei gironi di Champions non c'è proprio differenza? Anzi, allo stato attuale forse è meglio arrivare secondi. Sì, c'è nemmeno del solito, Pierluigi, hai ragione. Ma aspettiamo, ragazzi, siamo alla seconda giornata. No, però ci sono. Però Pierluigi ha ragione. Nel momento del sorteggio sono praticamente entrati due gironi, diciamo, di Europa League. Tra gli otto della Champions, il che ha squilibrato gli altri. Quindi, per carità, poi magari il Barcellona è peggio del Manchester City, ma una delle due arriverà seconda. Magari l'Atletico sarebbe meglio o peggio del Bayern di Monaco, ma una arriverà seconda. E lo stesso, insomma, vale per tre o quattro gironi. Tra l'altro, le italiane, non potendosi incontrare, Juve e Napoli, di fatto eliminano un altro girone sulla carta non difficilissimo come avversaria. E quindi è vero. Poi però, io non so come la pensi tu, Pier, io ritengo che è una grande squadra, e mi riferisco in questo soprattutto alla Juve, che parte per vincerla la Champions, debba ragionare per vincerlo il suo girone. Sì, sì, Massimo, io guarda, ti dico che a parte, vabbè, la banalità, vincere aiuta a vincere, questa roba ve le risparmio prima proprio di cominciare, ma io credo che ci sarà comunque differenza tra il primo e il secondo posto nei gironi. E il fatto che ci siano in effetti un paio di gironi completamente squilibrati, cioè più comodi rispetto ad altri, secondo me non cambia la sostanza delle cose, per cui secondo me alla fine conviene arrivare primi. Poi sai, noi quest'anno abbiamo la Juve al dente avvelenato, perché sa benissimo quello che è successo l'anno scorso, sa benissimo che perdendo quell'ultima partita contro il Siviglia ha buttato via il primo posto, pur avendo vinto andata e ritorno contro il Manchester City, sa benissimo che ha avuto la sfiga di beccare il Bayern, che non era ovviamente una cosa obbligatoria, quindi è chiaro che c'è una particolare enfasi su questo tema, però secondo me la verità è quella, è meglio arrivare primi e poi ovviamente a febbraio comincia un nuovo viaggio, ma questo lo sappiamo, la storia della Champions si divide in due parti, il Milan che vince nel 2007 ad Atene aveva fatto una prima parte di stagione molto molto negativa, quindi da questo punto di vista ragiona Allegri quando sottolinea che tre punti persi in campionato ti rimangono fino a maggio, tre punti persi in Champions potrebbero anche a febbraio convivere. A febbraio sia zero. Fabrizio, dai che riusciamo a farlo prima del GR. Fabrizio. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Chiamo da tifoso interista speranzoso comunque, perché è vero che ci sono due Inter in questo periodo, una di campionato e una di Coppa, che logicamente non gira, ma sono effettivamente due squadre diverse, e quella di Coppa UEFA effettivamente gioca in sette, purtroppo, questo noi lo sappiamo, ma siamo speranzosi soprattutto perché non abbiamo più Mancini con quel gioco lento che aspettava che si schierasse la difesa avversaria. Abbiamo visto un Inter con un De Boer che ha delle idee diverse, che va a pressare gli avversari. Contro la Juventus effettivamente non li abbiamo fatti giocare. No, ma di fatti contro la Juventus c'è stato un apice di rendimento. Però l'Inter di De Boer ne ha vinte 3 su 8 e altrettante le ha perse. Serve comunque continuità in positivo possibilmente. Ciao Pier, ci sentiamo domenica. Sì, domenica dalle 17 alle 19. Noi invece torniamo subito dopo il GR delle 15. Parliamo di Moviola, di Formula 1, di Roma 2024. Vi aspettiamo 800 24 00 24. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tutti convocati. Abbiamo ancora mezz'ora insieme fino alle 15:30. 800 24 00 24. Carmelo da Bergamo. Carmelo. Sì. Complimenti per la trasmissione. Io volevo fare due osservazioni. Io sono tifoso del Napoli, magari sono un po' di parte, però dico, inizia il campionato e già ci abbiamo Pescara Napoli con un rigore negato netto, e già sono due punti. Siamo andati a Genova, la stessa cosa, anzi due ce ne sono addirittura. Sì. Già sono quattro punti. Sì. Io non è che dico che voglio, però si ripetono sempre le stesse cose, è uno svantaggio enorme avere 4 punti in meno già. Ma guarda, io penso, Carmelo, in 5 gare, in 5 gare già avere 4 punti, ma non diciamo che sono dubbi. Sì, beh, insomma, dipende sempre dai punti di vista. Io credo che a Marassi il Napoli sia stato certamente non favorito, quindi sia stato certamente sfavorito dalle scelte di D'Amato nella partita con il Genoa, che è stata indirizzata e avrebbe probabilmente potuto finire diversamente. Però ad esempio su Pescara io ho un'opinione diversa, ma in generale credo che se il Napoli dopo 6 giornate insegue il tema del complotto arbitrale disperde energie preziose per un duello con la Juve che invece può provare a fare. Non so cosa pensa Andrea De Marco, moviolista di Premium. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Io credo che si tratti soltanto di semplici errori del direttore di gara, come ci sono in ogni stagione, finché non si riuscirà a trovare magari una soluzione. Adesso c'è la sperimentazione che inizierà proprio domenica e magari ripartendo da lì si potrà dare un grosso aiuto ai direttori di gara a fare in modo che nel campionato ci siano proprio meno errori, meno situazioni soprattutto discutibili. Sì, si comincia domenica ore 18 con Torino, Fiorentina e Milan Sassuolo. Si comincia a sperimentare la VAR, che è quella cosa che lo stesso presidente della FIFA Infantino ha sintetizzato come moviola in campo. 4 situazioni: il gol da annullare, la concessione o meno di un rigore, lo scambio di persona in caso di ammonizione o di espulsione, o la decisione se sia da espellere o da ammonire un giocatore in caso di una condotta non corretta. Tanti temi. C'è anche chi si chiede fra i tifosi perché altrove partano potendo subito incidere sul gioco e in Italia invece si faccia una sperimentazione cosiddetta offline. Beh, sicuramente magari in altri campionati le situazioni, cioè, ci sono anche meno pressioni, meno, è molto più semplice che qua da noi in Italia, che perché qua dovremmo trovare anche la soluzione, capire quando, come intervenire, chi sarà a decidere, se l'arbitro centrale. Io credo che sia l'arbitro centrale che chiederà l'aiuto dell'arbitro che sarà in cabina di regia. In queste due partite ci saranno Irrati a Torino, mentre Di Bello e Doveri saranno impiegati in cabina di regia a Milano, e loro dovranno, per ora faranno soltanto delle relazioni e stabiliranno cosa sono, dove si poteva intervenire in meglio, cioè con gli episodi appunto che potranno essere poi utilizzati come video assistant referee, e da lì poi si partirà con il prossimo campionato, speriamo, con la collaborazione diretta insieme al direttore di gara. Sì, io credo che non si debba aver fretta, cioè, anzi mi stupisco, certo, che lo abbiamo letto nei giorni scorsi in Olanda, in una partita dell'Ajax c'è stata un'espulsione decisa dall'assistente al video. Io credo si stiano bruciando i tempi, perché proprio se non c'è chiarezza, se non c'è un protocollo, se non si è sicuri di quali possano essere anche gli errori e i punti difficili da superare, io credo che invece che chiarezza si rischia di mettere ulteriore confusione. Sì, esatto, la confusione poi è quella che crea poi magari una situazione. Bisogna anche un po' semplificare anche le regole, da partire dal fuorigioco, dai falli di mano, da tante situazioni che creano difficoltà anche riguardandole poi alla moviola, perché comunque sono stati messi dei parametri sul fuorigioco che è diventato talmente difficile per gli assistenti valutare, che poi anche nelle situazioni alla moviola si ha fatica a commentare. Io tante volte mi sono trovato in difficoltà a commentare certi episodi perché non si capisce bene la regola dove va a finire. Il calcio è uno sport che deve avere regole semplici che tutti possono capire senza problemi di stare sempre a dare a trovare una spiegazione, di andare sempre oltre. Io credo che queste cose siano sicuramente da regolamentare in meglio, perché così non va bene. C'è il rischio, come scrive oggi Repubblica e come chiedono anche tanti tifosi, c'è il rischio che ci sia una mancanza in partenza di equità, perché ci sono partite riprese con 5, partite riprese con 10, altre con 20 telecamere. Beh, anche questo, come lo è per la Goal Line Technology, ci dovrà essere, credo, lo stesso numero di telecamere, le stesse in ogni partita. Comunque devono avere gli arbitri le stesse, per attuare questa VAR, devono avere le stesse caratteristiche, le telecamere e dove saranno posizionate, altrimenti chiaramente ci sono partite magari che hanno 30 telecamere, altre che ne hanno 10-15, quindi non va assolutamente bene anche questo, quindi dovranno vedere come fare, come attuare anche questa situazione. L'obiettivo è decidere entro 7 secondi. Ora, tu lavori in televisione, quando fai la moviola hai un minimo di dimestichezza, quanto ci vuole per dare un'occhiata a immagini di un episodio magari che vengono da 4, 5, 6 telecamere? 7 secondi qualcosa mi sembra, magari, eh? Mi sembra sarebbe veramente un record, però già riuscire a fare al di sotto del minuto, riuscire a decidere soprattutto su situazioni difficili, chiaramente io vi faccio l'esempio anche del rigore non concesso domenica a Genova, lì non se n'era accorto nessuno anche in campo, in quel caso lì cosa si potrebbe fare? Però nessuno ha protestato, nessuno l'arbitro, quindi non ha avuto magari neanche il sentore dal campo che fosse fallo di mano, e in quel caso lì la VAR cosa sarebbe servita? C'è il rischio che nemmeno sarebbe intervenuta. Sì, assolutamente, perché comunque nessuno dal campo, ma la percezione che c'è stata anche le persone che erano allo stadio non è stata quella di un fallo di mano, bensì di un colpo con la coscia. Quindi a quel punto chi l'avrebbe, cioè te ne accorgi magari dopo 5-10 minuti, anche noi riguardandolo, l'ho riguardato un po' di volte e poi mi sono accorto, ma questa l'ha presa con la mano, però dall'atteggiamento anche dei calciatori in campo, ma avrò visto bene io o no, perché effettivamente è una situazione, ci sono situazioni che sono particolari e che anche deciderle con la video assistant referee sarà molto difficile. Un altro esempio è il calcio di rigore concesso alla Roma nel finale di partita su Dzeko in Roma-Sampdoria. Il contatto, il calcetto c'è e quindi è un calcio di rigore che si può dare, però se lo guardiamo in maniera soggettiva, per i romanisti era calcio di rigore netto, per i sampdoriani era quasi simulazione. E quindi anche lì cosa fai? Poi si contesterebbero magari anche le decisioni della VAR sicuramente. Sì, ne aggiungo una. La FIFA ad esempio ha detto che informalmente che il gol in fuorigioco di Fiorentina-Roma, fuorigioco passivo che passivo non era, non sarebbe tra i casi in cui la VAR cambia l'ordine delle cose. Esatto, sì, che invece in realtà è uno degli episodi, più semplici, quelli da valutare, perché vedi il giocatore che allarga le gambe, copre la visuale del portiere, in quel caso lì forse la velocità è un episodio che puoi decidere veramente in maniera molto rapida, quello, perché è talmente chiaro ed evidente che mi sembra appunto strano quello che è stato detto da loro. Ieri c'è stato un episodio che non si sa se... Sì, questo è da raccontare. Non c'era la VAR nemmeno sperimentale, esatto, a Bilbao in Europa League. Però in Europa League, nella partita fra Bilbao e Rapid Vienna, l'arbitro, tra l'altro, che conosco bene, abbiamo fatto il corso UEFA insieme, anche siamo stati anche qualche torneo insieme all'estero, al francese Tony Chaperon, e in quel caso è stata presa prima la decisione, c'era un lancio in fuorigioco per il giocatore dell'attaccante del Bilbao, poi la situazione è andata avanti, il portiere ha atterrato il calciatore, appunto l'attaccante, è stata segnata la rete per la norma del vantaggio, l'arbitro in un primo momento ha concesso la rete, poi successivamente ha dato il calcio di rigore e l'ammonizione, sì, dopo un lungo conciliabolo con tutti, e poi ammonizione e calcio di rigore, alla fine ha preso la decisione giusta, cioè quella del fuorigioco. Ma come c'è arrivata questa decisione? La moviola è già tra noi, ma lo abbiamo già imparato dal 2006, dalla testata di Zidane e Materazzi. È inutile che ci giriamo intorno. Sicuramente è stata una situazione, vorrei sapere poi come è stata gestita dopo, anche a livello di osservatori UEFA, di capire come... Che spiegazione appunto verrà data poi di questa situazione, che prima o poi come si possa arrivare. Grazie Andrea. Esatto. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie ad Andrea De Marco. Scrive Filippo da Torino, la VAR porterà solo fiumi di proteste ad ogni situazione nemmeno dubbia, al solo fine di pescare qualcosa dalla moviola. Anche questo è un motivo per cui serve la sperimentazione, per capire quali sono i paletti da mettere. 800 24 00 24, Michele dalla provincia di Bergamo. Michele. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Niente, io mi lascio essere un po' polemico, perché sinceramente sì, con la storia delle, come si dice, che poi ci sarà la ricompensazione, non se ne esce più. Allora, io penso prima di tutto che quando si fa giornalismo, si fa informazione, bisognerebbe avere il coraggio di schierarsi da una parte o dall'altra, sì, perché non ci si può barcamenare sempre, dire ma di qua, ma di là. Allora, io come in politica, anche voi giornalisti sportivi, per me siete schierati, siete è una carta, non c'è. Ma su che cosa? No, io non riesco a capire, perdonami Michele. Hai detto che bisogna avere il coraggio di schierarsi, e adesso sì. Se mi dici su cosa, ti dico cosa ne penso, allora, però dici che siamo parlando, schierati. Stavamo dimmi. Parlando appunto, c'è stato un ascoltatore prima che è intervenuto dicendo che già al Napoli gli mancano quattro punti. Sì. Voglio dire, io sono al di sopra di ogni sospetto perché... Vabbè, noi siamo degli infelici da anni ormai, io sono un milanista per cui mi ritengo al di sopra di ogni sospetto, però non si può ascoltare, io sono qua ad ascoltare tutti gli anni, ormai ho 20 anni che ascoltiamo sempre la stessa solfa da parte di tutti i giornalisti. Ma no, ma non è vero, ma come non è vero? Ci sono fior di prove televisive che dimostrano che la Juve sarà favorita, ma voi non dovete dire, dovete avere il coraggio di schierarvi e dire... Il campionato italiano non si decide sul campo. Per carità, Michele, se lo pensassi te lo direi senza problemi. Io ti dico che il Napoli è stato sfavorito a Genova e te lo ripeto serenamente, e ti dico che secondo me sulla storia di Pescara del rigore prima dato poi tolto alla fine non c'è stato un errore. Questo è quello che penso, ma magari cambio idea prossimamente. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bisogna schierarsi, però insomma, se uno pensa che a Pescara al Napoli non ha subito un torto, è anche dire che non ha subito un torto in qualche modo è schierarsi. Zappelloni convocato per due cose. La prima, la Formula 1. Questa mattina le libere in Malesia, solito dominio della Mercedes, Hamilton e Rosberg. Terze e quarte le due Ferrari che vanno benino sul passo gara e autorizzano, non so se condividi, insomma, qualche speranza. Ma abbiamo visto troppi venerdì di questo tenore in questa stagione, per cui non mi illuderei. Le Mercedes mi sembrano comunque ancora quasi a un secondo di distacco, quasi su un altro pianeta. L'anno scorso andò molto bene in Malesia, ma fu una gara particolare. Sarà probabilmente ancora molto caldo, bisogna vedere le previsioni, perché ogni tanto avevano dei temporali, dei mezzi monsoni che possono cambiare la gara in corso. La Ferrari, l'importante io credo che sia in queste ultime gare cercare di recuperare sulla Red Bull, perché insomma a questo punto è inutile sognare, già chiudere al secondo posto del mondiale sarebbe un successo. Certo, finire a zero senza vittorie sarebbe un bel passo indietro rispetto alle promesse di inizio stagione e a quello che ci potevamo sensatamente aspettare dopo le tre vittorie dell'anno scorso. Sì, ovviamente si parla di podio, ecco, come speranza concreta. Sì, perché poi sai che si rompa una Mercedes è già difficile, due. È praticamente impossibile. Magari si scontrano alla prima curva, questo è già capitato. Ormai non succede più, insomma, adesso si sono messi d'accordo. Comincia a diventare pesante per il campionato. Almeno rivederli lottare tra di loro. Volevo invece capire dal vice direttore della Gazzetta dello Sport, che tra l'altro confermato quotidiano più letto d'Italia con oltre 3 milioni di lettori, dato che è stato pubblicato un paio di giorni fa, volevo capire qual è la vostra posizione, la tua posizione sull'idea del piano B del CONI per provare a salvare la candidatura di Roma 2024 anche andando contro il voto del Comune di Roma. Prima di tutto lasciami ringraziare i lettori, perché insomma, per 3 milioni di più di 3 milioni di lettori tutti i giorni è comunque qualcosa che fa sempre piacere. Grazie a tutti voi che ci comprate e ci leggete tutti i giorni. Riguardo a Roma, la posizione della Gazzetta è stata molto chiara, l'ho ribadita io in un corsivo pochi giorni fa. Noi eravamo favorevoli alle Olimpiadi anche perché pensiamo che l'Italia sia in grado di organizzare dei giochi senza necessariamente rubare, senza fare dei danni, anzi migliorando la città che andrebbe ad ospitare questi giochi. Il piano B credo che sia una necessità, visto il muro contro cui ci si è andati a sbattere dopo l'elezione della sindaca Raggi. E la sensazione è che probabilmente quando si arriverà al voto a Lima, magari la sindaca non sarà ancora non sarà più al suo posto a capo della giunta romana, e quindi rinunciare all'Olimpiade per colpa di una sindaca che magari tra pochi mesi non sarà più al suo posto farebbe ancora più rabbia, farebbe girare molto ma molto le scatole. Per cui se c'è la possibilità, e c'è, perché Madrid arrivò al voto senza avere l'ok della città, ma soltanto quello della regione e dello Stato, perché non provare ad andare avanti? Sì, però non è un messaggio un po' pericoloso. Fino a pochi giorni fa era stata esclusa l'ipotesi di bypassare la volontà del Comune di Roma, dove è la democrazia, oggi c'è il sindaco Raggi e quindi è legittimo che abbia una posizione, poi ognuno ha la sua idea, sì, io condivido quella del direttore Zappelloni, però se poi l'avesse spiegato in modo compiuto il suo no, saremmo stati tutti più contenti. Devo dirti che ieri ha sorpreso molto l'uscita del CIO, perché è stato lo stesso CIO a incoraggiare questo, non so quanto ispirato da Malagò o no, a incoraggiare questa presa di posizione, questa strada B, questo piano B di Roma 2024. Certo, fa molto comodo anche al CIO che Roma non sparisca dalla corsa, perché se a contendersi le Olimpiadi dovessero rimanere 2-3 città, perché Budapest fa e non fa, però Parigi è molto presente. Io sono reduce dal Salone dell'Auto a Parigi e la città parteggia molto per i giochi olimpici. Qui il sindaco, che era contrario prima dell'elezione, poi ha sposato la candidatura olimpica di Parigi perché ha visto l'opportunità di migliorare le periferie francesi con i soldi in arrivo, le periferie parigine con i soldi in arrivo per l'Olimpiade. Quindi anche il CIO, forse trovandosi 2-3 città, preferirebbe avere Roma in corsa fino alla fine, però se c'è questa possibilità io dico perché non sfruttarla, visto che noi crediamo nel piano del comitato organizzatore per Roma 2024 e ci crede anche la Regione Lazio, ci crede Renzi, che continua a dire perché che è stato un errore da parte della giunta romana dire di no. Quindi aspettiamo e vediamo cosa succederà. Grazie direttore. Grazie a voi, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti. Grazie Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ovviamente noi ospitiamo anche le opinioni di chi pensa che invece sia giusto che Roma e l'Italia si ritirino dalla candidatura per i giochi del 2024. Ripeto, poi ognuno ha la sua idea. Marco D'Alecco, Marco. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per la convocazione, come si dice. Io volevo fare brevemente due considerazioni su quello che è il dualismo tra Juventus e Napoli, e in particolar modo anche su tutte le lamentele che vengono portate avanti dai tifosi e dall'allenatore del Napoli. Io dico che la Juventus, io sono tifoso juventino, è prima in classifica nonostante non abbiano mai dato un rigore alla Juventus, anzi con la Fiorentina c'era un rigore per la Juventus non fischiato. Però in questo caso una grande squadra deve riuscire a superare anche quelli che sono eventualmente degli errori arbitrali a sfavore. Riguardo invece al fatto che la Juventus venga considerata favorita perché ha fatto un mercato stratosferico, come dicono tutti, io dico che se ha un valore economico, ha un valore tecnico, corrisponde un valore economico, la Juventus ha chiuso la campagna acquisti sostanzialmente in parità, sì. Quindi ha ridistribuito dei valori in campo tecnici, mentre Napoli, che ha investito, oltre alla cessione di Higuain ha anche investito altre risorse, dovrebbe essersi rinforzato. Sì, ma io di questo ne sono convinto e ne abbiamo parlato lungamente anche ieri. Poi la Juventus ha investito, non è che è andata in pari e l'ha chiusa lì perché ha fatto la cessione di Pogba. La Juventus ha investito e tanto, perché sta cercando di crescere, di puntare alla Champions. Il Napoli sta investendo e tanto, e difatti il paradosso è che i tifosi poi ce l'hanno con De Laurentiis, pensando tra le altre cose che questa sia una squadra che non è all'altezza di quella dell'anno scorso. Poi sugli arbitri abbiamo detto prima. Francesco da Roma. Salve, grazie per la convocazione. No, io voglio ritornare velocemente sulla Moviola in campo. Io veramente non capisco nel 2016 com'è possibile non metterla. Faccio due esempi di altri sport velocissimi. Il primo, il basket, un anno fu assegnato lo scudetto alla Fortitudo, non so se se lo ricorda, con la Moviola in campo non ci furono polemiche, non ci furono il video, quello che era successo, fu assegnato lo scudetto. Però perdonami, poi prego. Ti faccio andare avanti. Però lì è tutto semplice, piede sulla riga, piede fuori dalla riga, non esiste margine di interpretazione. Ad esempio, su un fuorigioco attivo o passivo esiste sempre anche l'elemento umano. Però prego. Prego, io un altro esempio, ero a Flaminio quando l'Italia batté il Galles a rugby, fu data una rimessa laterale negli ultimi 20 metri per il Galles fuori tempo massimo, l'arbitro non se n'era accorto, fu avvisato dall'arbitro che aveva la moviola in campo e noi vincemmo la partita. Cioè, molti esempi li potrei fare di gol che potrebbero anche essere annullati successivamente. Poi l'altra cosa è il tempo effettivo e l'ultima, negli ultimi 5 minuti se un giocatore è normale non rientra più in campo. Se entrano con la barella ad aiutarlo, perché? Così vediamo anche perché se sta male sta male, se non sta male non c'è bisogno del medico in campo, così vediamo anche quelle scene finali. Sì, io però credo minuti, Francesco che oggi viene data discrezione all'arbitro e viene ampiamente utilizzata quella discrezione di allungare e accorciare i tempi di recupero come vuole, tant'è vero che mi sembra che questo sia un problema che in gran parte sia stato superato da questa flessibilità concessa ai direttori di gara. Sul resto la moviola deve arrivare, io credo serva semplicemente un adeguato periodo di sperimentazione per capire quando si usa, come si usa e quali sono i limiti e le potenzialità. Solo quello, basta attendere qualche mese, poi quando siamo pronti la facciamo partire. Noi ci fermiamo qui, torniamo domenica dalle 17 alle 19 per raccontarvi il duello Juve-Napoli, per raccontarvi la Formula 1 dalla Malesia, in diretta Milan-Sassuolo da San Siro e Torino-Fiorentina, insomma tutto il calcio e non solo. Domenica dalle 17 alle 19. Ciao. Have a nice day.